Prospettiva. Cosa vedi quando ti guardi intorno? Sempre il vuoto, sempre un nuovo sogno. In quei giorni in cui hai voglia di spaccare il mondo e ti senti forte e ti senti pronto e ti senti tu. Ora dimmi che non sai di tutte quelle volte che ti raccontavo dei miei guai. Ora dimmi che non sai di tutte quelle notti passate ad inseguire te. Testa ancora girano parole che ho sentito dette a caso, in quei momenti d'odio in cui dici quello che davvero pensi e ti senti forte e ti senti pronto e ti crolla il mondo. Ora dimmi che non sai di tutte quelle botte che hai sentito come un treno da un momento all'altro. Ora dimmi che non dai più niente per scontato, hai imparato quanto è scomodo fidarsi non solo di te. Sei davvero non solo tanto per dire, hai visto che il mondo ha più prospettive. Basta solo saper girare la testa. Ora dimmi che non vuoi, perché non vuoi capire che un momento può aver due spiegazioni. Adesso vuoi guardare, che non è solo come ti raccontano. Grazie.